ogni volta che muore, non muore mai, non muore mai, non muore mai. Ogni volta che ride, si acuisce il dolore, ogni istante che fugge, conta piano le ore, ogni volta che scorre, non passa mai. Ogni volta che mangi, non parli mai, non parli mai, non parli mai. Chi è? Chissà, chi sarà? E se fa dentro i miei occhi o i tuoi, se mai brucerà. Chissà il suo nome, la forma che ha, se nebbie e sogni dissolverà. Ogni volta che fugge, e ci tocca restare, se rimane per sempre ti conviene remare. Ogni goccia che cade non piove mai.